S'alza il sole sui monti e sono ancora a casa. Cala il sole sull'acqua e mi trovo nella polvere della strada. S'alza il sole sui monti e adesso sono a Torino. Cala il sole sull'acqua, mi trovo solo come un cane in un angolo dentro una mescita di vino. S'alza il sole sui monti e sono arrivato in Germania. Cala il sole sull'acqua e sono una baracca disteso al buio con un vecchio maglione addosso e una lampada che non funziona. S'alza il sole sui monti e mi trovo a Nanterre, periferia di Parigi. Cala il sole sull'acqua e sono con gli altri compagni a vegliare, un povero italiano, il mio amico Luigi. S'alza il sole sui monti e sono arrivato a Milano, città dell'abbondanza e dei miracoli e della Madonna. Cala il sole sui monti e non ho nemmeno la forza di guardarmi la mano. S'alza il sole sui monti e mi trovo braccato nella campagna. Cala il sole nell'acqua e se qualche santo mi aiuta mi trovo alla fine in una grotta buttata. S'alza il sole sui monti e sono ferito a morte, ferito al petto e condannato. Povero operaio, povero pastore, povero contadino, s'alza il sole sui monti e sono morto e sotterrato. S'alza il sole sui monti e un altro al posto mio è già arrivato. Ricci. Andiamo da nonno, ma che sei sordo, andiamo. Con me, come se fossi io, non ci posso fare proprio niente. Un po' di pazienza e vedremo di sistemarvi tutti quanti. Io sto qua per questo. Vedremo un po' quello che si può fare. Ari, c'è il posto? È il posto? A tacchino. Te la presenta al centro affissioni. Gli dai sta carta e te porta il libretto. C'è niente per noi. Mannaggia la miseria, oh. E qua? Per noi? Ci sono due posti per tornitori, ma qui tornitori non ce ne stanno. E se non sono tornitori devo seguire a star qui a fare la muffa. Oh, e che vuoi sfogare con me? Ari, ricordati di portare la bicicletta. Ci vuole la bicicletta. C'è stato pure lì, no? La bicicletta? Ce l'ho e non ce l'ho. Subito, no? La posso avere fra un po' di giorni? No, ce l'ho subito, se no non te viene. E non è uguale. Questi primi giorni faccio il servizio a piedi. Parliamo se chiaro, Ari, ce l'hai o non ce l'hai sta bicicletta? Se non ce l'hai bisogna dare il posto a un altro. Ce l'ho io la bicicletta. E che ce l'ha solo tu la bicicletta? Ce l'ho pure io. Ma tu sei muratore, sei dell'altra categoria. E cambiami categoria. Ma non si può.

Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti. Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte. E così da questo inferno, sempre senza staccare, passiamo direttamente a quell'altro inferno che taglia le distese, eh? Sentimi bene, Massa, te che adesso parli tanto. Ma dov'è che eri? Quando noi altri, coi compagni del sindacato, abbiamo fondato il sindacato qua della fabbrica, della PA. Dov'è che eri, eh? Rispondi. E dov'è che eri? Dov'è che eri? Facevo il cottimista. Seguivo la politica dei sindacati. Lavoravo per la produttività. Incrementavo io, incrementavo. Adesso cosa sono diventato? Guarda, sono diventato una bestia, una bestia, guarda, sono diventato. Beh, sei una bestia, mica noi altri. Lo studente, lì fuori, dice, aspetta, concetto, dice, ecco, che noi siamo come le macchine, capito? Che io sono una macchina, io sono una puleggia, io sono un bulone, io sono una vite, io sono una cinta di trasmissione, io sono una pompa, la pompa è rota. No, e non c'è più Enzo di aggiustare la pompa adesso. Io propongo questa proposta. Di lasciare subito il lavoro di... Ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le renti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le renti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le renti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le renti. Un servo tempo fa di già una piazza pregava a Cristo un croce e ci dicia: Cristo non mi faccio ne tira fuori le renti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le renti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le renti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le renti. Ricordati che ogni persona ha una sua dignità, sogni e emozioni che la vita ci dà. C'è chi ancora per il potere ha venduto l'anima, disposto a distruggere ogni briciola di verità. C'è chi dice non mi va, non mi va, non mi va. Se c'è chi domina, sgomina, insulta la mia umanità. Guerra chiama guerra, lotto per la mia identità, nonostante troppi e troppi siano le difficoltà. Stato di calamità, suddito di società, schedato dalla realtà, schierato in cattività, contro la meschinità, pronto anche a tutto si sa. Non credo all'immunità di chi sta sopra a guardare, è la mia gente che dà menzogne e tranquillità solo per chi sta di là. Di questo bel varietà, presidente Maragia, oggi di servilità pagherete tutto, spero non nell'aldilà. Chi è Cristo ma rispondi dalla croce, forse si sono spezzati lì dovrazza. Cupoli la giustizia si la fazza, nessuno ormai più la farà. Pigliano un bastone e tira fuori le renti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le renti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le renti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le renti. farsi la pazza. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le lenti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le lenti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le lenti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le lenti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le lenti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le lenti. Ci sto, ci sto. Voce! Ha detto che ci sta. Così va bene. No, no, un momento, amici, prego. Un momento. Io, invece, consiglierei una certa discrezione. E acqua in bocca. Finché non vi sarete procurati viveri, carbone, provviste il più possibile, a credito. Mica male, professore. Senza pagare. Un momento, un momento, un momento. Perché dovrete essere in condizioni di durare il più a lungo possibile. Da domani, quando si saprà che siete in sciopero, nessuno vi farà più credito. Tutti vi chiuderanno la porta in faccia. E questo è bene che lo sappiate fin da questo momento. Ehi, giovinotti, oggi è domenica, a mezzogiorno i negozi chiudono. Forza compagni, entrate nello stand, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni. Moglie, stasera ti prego, dia mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentire. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, mi è arrivata la liquidazione, ma licenziato senza pietà. E la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro e della libertà. Quando la lotta è di tutti per tutti, il tuo padrone lo sai cederà. Se invece vince perché i comicheri gli danno la forza che lui non ha. Questo si è visto davanti ai cancelli, lui si chiamava i compagni alla lotta. Ecco il padrone facendo una massa, dopo l'altro cominciano a entrare. Oh cara moglie, dove rivederli, venire avanti provati e piegati, e noi gridare come remendo te, e loro preghiti senza guardare. Che poveretti facevano pena, ma dietro a loro lasso il bastone, rideva allegra il barco padrone, gli maledetti senza pietà. Oh cara moglie, io prima ho sbagliato, dia mio figlio che venga a sentire, ti ha dato a dire che cosa vuol dire. Una giornata che rende bene l'idea di cosa sta succedendo in questo paese al netto delle conferenze stampa. I lavoratori del gruppo Whirlpool in sciopero e in strada a chiedere di difendere il lavoro. Altri lavoratori a Novara in sciopero davanti ai cancelli. A Novara è successa una cosa che non non dovrebbe accadere in un paese civile. Uno di quei lavoratori, un sindacalista, un giovane sindacalista, è stato barbaramente ucciso, investito da un camion. E allora chiediamo, è un paese questo che sta andando avanti? È un paese questo che si prepara a costruire il futuro in un momento in cui ha più soldi di quanto ha mai visto? O è un paese che sta degenerando, dove tra pochi giorni, con la scadenza del blocco dei licenziamenti, avremo gente licenziata che oggi è per strada e dove se scioperi per chiedere i tuoi diritti rischi la vita? Lo chiediamo a questo governo, lo chiediamo al paese intero, ma promettiamo che noi per strada e davanti ai cancelli continueremo a stare. We shall not be moved. We shall not, we shall not be moved like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. We shall not, we shall not be moved. We shall not, we shall not be moved like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. Union is behind us, we shall not be moved. The union is behind us, we shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, we shall not be moved. We're fighting for our freedom, we shall not be moved. Fighting for our freedom, we shall not. That's planted by the water.